Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 9 febbraio 2014 e la 151esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Torniamo a parlare di vivisezione affrontando un aspetto spesso poco considerato, anche se purtroppo la maggior parte degli esperimenti termina con l'uccisione dell'animale, in alcuni casi fortunatamente questo non avviene. Purtroppo però per il vivisettore un animale non utilizzabile è uno scarto e quindi la fine dell'animale sarebbe purtroppo sempre la stessa, cioè la morte. Uso il condizionale perché fortunatamente esistono delle associazioni che si preoccupano del recupero, della riabilitazione e dell'adozione di animali dal laboratorio. Ne parliamo con Gianluca del Rifugio Gli Ultimi, che si occupa in particolare di roditori. Gianluca, parlaci del progetto, di che cosa vi occupate in particolare? Praticamente al Rifugio Gli Ultimi ci occupiamo di riabilitazione e adozione di roditori, appunto, principalmente ratti. Al rifugio al momento abbiamo circa un centinaio di ratti, la maggior parte femmine, di età che va dai 3 a 4 mesi fino a un anno di età, appunto. Questo progetto nasce da una collaborazione tra iCare, che è l'associazione del dottor Massimo Tetamanti, che si occupa di salvare animali dai laboratori, di sviluppare metodi sostitutivi alla vivisezione, e Freccia 45, un'associazione a difesa che si batte, diciamo, per la tutela degli animali, la difesa e la tutela degli animali. Queste due associazioni hanno deciso di aprire questo rifugio per dare un segnale forte alla lotta contro la vivisezione. E perché il nome Gli Ultimi? Mi ho scelto Gli Ultimi perché gli ultimi sono proprio i ratti, sono considerati gli ultimi, appunto, dopo di loro non c'è più niente. Infatti il sottotitolo serve il rifugio dei fuoricasta, con un richiamo a Gandhi e all'India, perché iCare, ricordiamo che nasce come, diciamo, nasce in India, e il più grande centro al di fuori dell'Italia è appunto in India, dove è stata abolita la vivisezione didattica totalmente. Hai un'idea dei numeri dei ratti che vengono utilizzati giornalmente nei laboratori in Italia? No, giornalmente no. Posso dire che iCare, da quando è iniziato questo progetto meno di 10 anni fa, ha salvato più di 10.000 animali complessivamente dai laboratori, anzi il numero è in costante aumento, per fortuna. Posso dire che noi, da quando abbiamo aperto il rifugio, ufficialmente Gli Ultimi è nato a settembre dell'anno scorso, però noi avevamo già iniziato una collaborazione con iCare circa 2 anni fa, abbiamo salvato più di circa 300 razze, solo nel nostro rifugio. E come vi arrivano i topi a voi, alla vostra associazione? Allora, praticamente ci sono diverse università che per motivi, per ovvi motivi di, come si dice, preservare il rapporto con l'università, non possiamo dire quali sono, però sono università italiane, contattano il dottor Tettamanti quando praticamente o arrivano alla fine dell'esperimento o, nei casi che noi preferiamo, quando l'esperimento viene bloccato e viene sostituito con metodi alternativi. A questo punto, come dicevi giustamente tu prima, quando viene bloccato l'esperimento l'animale diventa, uso un brutto termine, inutilizzabile, e quindi verrebbe soppresso, verrebbe ucciso. Invece qua entra in gioco il CARE, che si occupa di andare a recuperare gli animali tramite volontari che fanno staffette e vanno giù alle varie università, prendono gli animali, li prendiamo, anzi, e li portiamo nei vari posti dove c'è possibilità di accoglierli, di eventualmente riabilitarli e poi cercare adozione. I ratti sono animali molto, diciamo, sorprendenti, nel senso che noi, parlo di me e mia moglie, i primi che abbiamo adottato tramite iCare, siamo rimasti mezza giornata quasi a bocca aperta a guardarli. Che uno pensa al ratto come un animale più, come si dice, il ratto classico da, tra virgolette, da fogna, diciamo, l'animale grande, grosso, brutto, che porta malattie, invece non è assolutamente vero. Sono animali molto puliti, soprattutto dopo il contatto umano, dopo una mano di accarezza o quant'altro, cercano di scrollarsi via di dosso l'odore dell'umano e interagiscono molto tra di loro, sia i maschi che le femmine, e quindi li diamo in adozione a gruppi di tre, anche per questo motivo, perché è minimo tre, perché sono animali molto, molto gregali. Amano arrampicarsi, quindi noi consigliamo sempre gabbioni molto ampi o in alternativa addirittura delle voliere, perché amano appunto arrampicarsi. C'è da dire che questi animali salvati dai laboratori sono selezionati geneticamente da diverse generazioni, quindi anche se magari hanno passato un tempo relativamente breve della loro vita in uno stabulario, breve parlo di 3 mesi, perché 3 o 4 mesi come le ultime che sono arrivate, fai conto che un ratto in media vive sui 2 anni, 2 anni e mezzo, anche se passano, diciamo, 3 mesi in uno stabulario, comunque fuori da lì non saprebbero sopravvivere, quindi purtroppo sono da tenere, dico purtroppo perché ma le gabbie piacciono vuote, certo. Purtroppo sono da tenere in gabbia, perché altrimenti non sarebbero in grado di popolarsi il cibo, non sarebbero in grado di distinguere i predatori, non sarebbero in grado di sopravvivere. Senti, hai una curiosità da raccontarci su qualcuno degli ospiti che hai avuto, di questi 10.000 animali che sono passati da voi, da raccontarci? Ma no, guarda, magari da noi magari 10.000, noi molti di meno. Guarda, a me viene in mente una rattina che aveva che era affetta da labirintite, che praticamente vuol dire che aveva la testolina storta. E questa rattina era destinata a essere uccisa solo per quello. Invece Massimo Tettamanti è riuscito a salvarla, a farla riabilitare, e praticamente si muove come le altre, se non meglio, nel senso non è detto che una piccola menomazione fisica come avere la testa storta possa essere indice di una mancanza di qualunque genere, anzi. Senti, se vi volessimo aiutare in qualche modo, di cosa avete bisogno voi? Allora, essenzialmente di adozioni. Adozioni o staffette. Adesso noi il rifugio è in provincia di Parma. Cerchiamo di fare staffette fin dove arriviamo. Abbiamo 2 validissimi collaboratori, uno in Piemonte e uno in zona Romagna, che copre tutta l'Adriatica fino quasi alla Puglia. E cerchiamo di arrivare fin dove possiamo. E sostanzialmente a rifugio c'è bisogno di o beverini o gabbione o cibo, anche magari pane secco. Vogliamo ricordare l'indirizzo del sito per chi volesse approfondire? Certo, certo, è www.gliultimi.org. E nel sito, la sezione contattaci, ci sono varie sezioni, c'è quella contattaci dove ci sono email, ci sono info@gliultimi.org e adozioni@gliultimi.org. E poi ci sono anche una sezione con gli aiuti da aiutare, perché diciamo c'è un codice IBAN, perché anche chi magari dice io voglio aiutare però non riesco a far nulla, magari anche per noi 5-10 euro possono voler dire molto. Certamente. A fine mese. E se qualcuno dell'università volesse in qualche modo avviare, diciamo, una collaborazione con voi, chi potrebbe contattare? Dovrebbe contattare Care Italia con il dottor Tettamanti. Colgo l'occasione per a questo punto dire che se qualcuno volesse aiutarci può contattare, può scrivere a noi, perché Il sito Daycare al momento è offline a causa di un attacco di hacker. E questo è dovuto al fatto che Massimo Trattamanti ha lanciato un progetto che si chiama Italia senza vivisezione. E al momento è sotto attacco da parte dei vivisettori. Restiamo animali? Restiamo animali. Notizie, interviste, attualità. Per noi non c'è alcun dubbio, le vittime della caccia sono gli animali cacciati e di loro in questa trasmissione abbiamo parlato molto spesso. Tuttavia, riteniamo degno di nota anche un altro aspetto sanguinario della caccia, ovvero le vittime tra gli umani. Vittime che, tra l'altro, molto spesso non sono nemmeno cacciatori e magari sono anche persone contrarie alla caccia. Ce ne parla la meritoria associazione Vittime della Caccia, che ha recentissimamente pubblicato nel suo sito internet il dossier sulle vittime della caccia della appena terminata stagione venatoria 2013-2014. L'associazione fa da anni questo lavoro certosino di estrarre ed elaborare i dati scaturiti dalle rassegne stampa quotidiana per ottenere i numeri di questi tragici incidenti. In realtà è discutibile che si possano definire incidenti e i numeri sono utili perché i numeri poi servono per fare delle considerazioni di tipo politico. L'arco della stagione venatoria che si è appena conclusa è consistito in meno di 5 mesi, cioè dal 1 settembre 2013 al 30 gennaio 2014. In tutto sono stati 60 i giorni effettivi disponibili per ogni cacciatore in questa stagione. Sia nell'ambito venatorio sia in quello extravenatorio, le vittime umane uccise o ferite, in quello che appare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra, sono esclusivamente coloro che hanno subito lesioni a causa di detonazioni esplose da armi da caccia. Ambito venatorio è lo spazio in cui si svolgono le battute di caccia, quindi le vittime conteggiate sono coloro che hanno subito lesioni o che sono morti per via di fucilate durante l'azione di caccia. Per ambito extravenatorio invece si intende lo spazio al di fuori delle battute di caccia e anche l'insieme dei tragici eventi derivati dall'uso di armi da caccia da parte di chi è legittimato a detenerne ad uso venatorio. In tutto abbiamo avuto 105 tra morti e feriti per armi da caccia. In ambito venatorio ci sono stati 19 feriti e un morto tra i civili, 50 feriti e 12 morti tra i cacciatori, per un totale di 69 feriti e 13 morti, quindi 82 vittime in tutto. In ambito extravenatorio ci sono stati 9 feriti e 10 morti tra i civili, 2 feriti e 2 morti tra i cacciatori, quindi il totale dell'ambito extravenatorio è stato di 11 feriti e 12 morti, in tutto 23 vittime. Se si sommano entrambi gli ambiti, quindi quello venatorio e quello extravenatorio, abbiamo avuto tra i civili 28 feriti e 11 morti, tra i cacciatori 52 feriti e 14 morti. In totale 80 feriti e 25 morti, quindi 105 vittime in tutto. Nella stagione venatoria 2012-2013 le vittime della caccia erano state 118. Il numero quindi delle vittime della caccia rispetto all'anno scorso è in leggera flessione, così come è in leggera flessione il numero dei cacciatori che prendono la licenza, visto l'innalzamento dell'età media dei cacciatori stessi. Naturalmente il dossier non è esaustivo, i dati vengono raccolti nelle rassegne stampa che non sempre riportano tutti gli incidenti di caccia, comunque sono numeri importanti, non si può parlare di incidenti dal momento che anno dopo anno un centinaio di persone perdono la vita o vengono gravemente ferite a causa di quello che facciamo fatica a definire uno sport. Andrea Zanoni, l'europarlamentare amico degli animali, scrive in un suo comunicato: siamo costretti ogni anno a fare la conta di morti e feriti a causa della caccia. È inammissibile che gli italiani, oltre alle difficoltà della crisi, debbano sopportare anche le fucilate di quei cacciatori la cui mira lascia sempre più desiderare. L'avanzare dell'età dei cacciatori dovrebbe imporre controlli più stringenti. Dopo i 60 anni sono necessari controlli almeno annuali sullo stato psicofisico di chi maneggia le armi. Morti e feriti per armi da caccia sono inaccettabili in un paese che si definisce civile. Ci chiediamo se possono continuare a essere chiamati incidenti quelli di caccia, dove anno dopo anno ci sono centinaia di persone coinvolte tra quelli che ci rimettono la vita e quelli che rimangono feriti, senza che le istituzioni prendano dei provvedimenti risolutivi. Per chi desiderasse approfondire sull'esito sanguinoso della scorsa stagione venatoria 2013-2014, www.vittimedellacaccia.org. In conclusione, due brevi notizie che hanno sempre a che fare con la caccia. Il Costa Rica ha messo fuori legge la caccia. È il primo paese del continente americano ad averlo fatto, mentre il Botswana è appena diventato il terzo paese in Africa a rendere illegale la caccia dopo la Tanzania e il Kenya. Il presidente Laura Cincilla ha detto: è completamente antidemocratico permettere un'attività che va contro il bene della maggior parte della popolazione a beneficio di pochissimi. Seconda e ultima notizia breve dal mondo della caccia. Questa volta si tratta della caccia di balene in Antartide. La nave Bob Barker, che fa parte della flotta di Sea Shepherd, è stata speronata dalla baleniera della flotta giapponese Yushin Maru 2, che le ha tagliato la strada davanti alla prua per impedirle di avvicinarsi alla nave fabbrica Nishin Maru. Sea Shepherd sta mobilitando tre delle sue navi nella campagna contro le baleniere giapponesi nell'Antartico, la Bob Barker, la Steve Irwin e la Sam Simon. È uscito un comunicato stampa su questo attacco, ma su YouTube è già visibile il video di questo speronamento. Noi diamo la nostra massima solidarietà ai ragazzi coraggiosi che mettono a repentaglio la propria incolumità per salvare la vita delle balene. Lo ricordiamo, la caccia alle balene è proibita da una convenzione internazionale che risale al 1994, ma il Giappone, con la scusa delle ragioni scientifiche, continua a prelevare cetacei che invece destina poi al mercato alimentare. Invitiamo tutti ad appoggiare sempre di più la flotta di Sea Shepherd in tutti i modi possibili, con donazioni o anche con email e messaggi di solidarietà. Nel nostro blog restiamoanimali.it troverete il video del vigliacco speronamento della Bob Barker della flotta Sea Shepherd. When the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and fear? Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make. Oggi vi daremo una ricetta un po' versatile: salsa al cavolo di verza e patate con crema di soia, che può essere utilizzata sia per condire della pasta o anche per fare dei crostini come antipasto. Queste le dosi per 4 persone: 100 g di latte di soia, 150 g di olio di semi di girasole, 50 g di olio di extravergine di oliva, uno spicchio di cavolo verza circa 200 g, 200 g di patate, uno spicchio di aglio, un cucchiaino da caffè di curcuma in polvere, sale e pepe. Versate il latte di soia nel bicchiere del frullatore di immersione. Se non è latte autoprodotto, acquistatene uno senza zucchero. Azionate il frullatore e versate a filo entrambi i tipi di olio. Aggiungete metà della curcuma e aggiustate di sale. Dovrete ottenere una crema abbastanza morbida. Se risultasse troppo liquida, aggiungete un altro po' di olio. Se al contrario fosse troppo compatta, alcune gocce di latte. A parte, lessate 50 g di patate, sbucciatele e lasciatele freddare. Nel frattempo, lavate e tagliate il cavolo verza a strisce piuttosto sottili e sbucciate le rimanenti patate tagliandole poi a quadretti. In una padella rosolate l'aglio con dell'olio extravergine d'oliva e aggiungete il cavolo e le patate e fate cuocere a fuoco medio. A metà cottura aggiungete la rimanente curcuma e aggiustate di sale e pepe. Se necessario, bagnate con dell'acqua o del brodo vegetale fino a quando le verdure saranno cotte. Vi consiglio di lasciarle comunque un po' al dente. Unite le patate che avete lessato alla crema di soia ed emulsionate ancora un minuto col frullatore. A questo punto la crema risulterà molto più densa. Unite le verdure saltate e mescolate bene. Con questa salsa potete condire la pasta oppure utilizzarla per fare dei crostini, magari utilizzando del pane integrale tostato. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potrete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Questa settimana cominciamo con un terribile reportage che dà la copertina al settimanale internazionale. Il titolo Salviamo gli elefanti. 100 animali uccisi ogni giorno in Africa. Corruzione e guerre. Profitti illegali per miliardi di dollari. Il traffico d'avorio minaccia la sopravvivenza degli ultimi pachidermi. All'interno il servizio ampio di Martin Fletcher, pubblicato in prima battuta su Prospect, un periodico che esce nel Regno Unito. L'attacco del pezzo dà la misura della gravità della vicenda che viene raccontata. Una vera guerra al vivente, al selvatico, che ci fa capire quanto la nostra società, votata al denaro, al profitto, sia marcia, sia corrotta nel suo essere. Comincia così l'articolo. Abbiamo sentito l'odore della carcassa dell'elefante prima ancora di vederla. Un fetore di carne in decomposizione che contaminava l'aria pura della savana keniana. Potevamo addirittura sentire la carcassa, o meglio, il ronzio del fitto strato di mosche che la ricopriva. Quando è apparsa ai nostri occhi è stato comunque uno shock. I bracconieri avevano sparato a una zampa e al petto di un esemplare maschio di una quarantina d'anni che si stava spostando verso nord per sfuggire al periodo peggiore della stagione delle piogge. L'elefante era riuscito a seminare i suoi predatori umani, ma 4 giorni dopo era crollato sotto una caccia. Era successo una settimana prima del nostro arrivo. Da vivo, l'elefante doveva pesare almeno 6 tonnellate, ma la sua carne era stata divorata dagli sciacalli e dalle iene. Le zanne, ognuna del peso di 20 chili, erano state rimosse dalle guardie forestali. Le orbite degli occhi erano vuote. Le ossa bianche spuntavano dalla pelle grigia. Il contenuto dello stomaco era colato sulla terra rossa. Questa è l'immagine che Fletcher ci restituisce per introdurci in questo argomento davvero desolante. In un altro passaggio si dice che all'inizio dell'Ottocento in Africa vivevano più di 20 milioni di elefanti. Un secolo dopo il loro numero era già sceso a 5 milioni. Alla fine degli anni 70 erano 1,3 milioni. Ufficialmente oggi se ne contano fra i 470.000 e i 690.000, ma molti esperti pensano che dopo anni di massacri indiscriminati il loro vero numero sia di soli 300.000. Ancora un altro passaggio che ci fa capire perché ha senso parlare di guerra al vivente, di massacri compiuti per il profitto senza alcun discrimine per le vite umane e animali. Negli ultimi 10 anni, dice ancora l'articolo, i bracconieri hanno ucciso più di 1.000 guardie forestali, trasformando ampie parti del territorio africano in zone di guerra. Nel settembre del 2012, in un'imboscata nel parco nazionale Zakouma in Chad, che negli ultimi 10 anni ha perso il 90% dei suoi 4.350 elefanti, sono stati uccisi 6 ranger. Nel 2013 sono rimasti feriti o uccisi 7 guardie a parco nel Kenya Wildlife Service ed eliminati più di 30 bracconieri. Nel settembre scorso il presidente gabonese Ali Bongo Ondimba ha dichiarato: «Le nostre guardie forestali sono impegnate in una guerra contro bande sempre più violente e ben armate e devono combattere non solo per la vita degli animali simbolo dell'Africa, ma anche per la loro». In un articolo di supporto intitolato «Matriarche in pericolo» e uscito sul New Scientist, sempre nel Regno Unito, si dice che le femmine anziane svolgono un ruolo chiave nei branchi di elefanti, ma sono finite nel mirino dei cacciatori. Degli animali selvatici alla loro triste sorte in questi tempi di guerra al vivente, a due pagine del Corriere della Sera, che sono pubblicate sotto l'etichetta «Sapori e amori», ma che in realtà propongono un'autentica oscenità. Queste pagine tentano di spiegare come si cucinano i polpi e riproducono in un grafico il corpo di un polpo con dei focus su sezioni di questo animale in modo che sia possibile mostrare come tagliarlo, come manipolarlo, come usarne le carni. Siamo davvero ai confini con la pornografia, ma d'altronde il Corriere della Sera non fa niente di speciale se non ripetere per l'ennesima volta un modo di vedere gli animali che ci arriva dalla tradizione e che non si riesce a mettere minimamente in discussione per una sorta di paralisi del pensiero. Anche di recente si è parlato dei polpi come animali misteriosi. C'è stato il caso durante il mondiale di calcio del polpo che quasi come un gioco veniva considerato in grado di prevedere l'esito degli incontri di calcio. Una superstizione certamente, ma legata anche al mistero di questo animale che invece in queste pagine viene proposto come pura carne, con grande noncuranza e senza nemmeno accorgersi del contenuto pornografico, potremmo dire, di questa proposta. Basta leggere l'attacco dell'articolo per capire il tenore di questo testo di inconsapevole crudeltà. Partiamo dal nome, polpo e non polipo, come a volte si dice erroneamente, un pesce difficile, sin da quando si acquista, perché tutti noi, almeno una volta, ci saremmo posti la domanda: come si pulisce? E poi l'apparenza che non aiuta, viscido, scivoloso, bruttino da vedere, ingombrante da cucinare, fra l'altro. Ci vuole una pentola capiente per bollirlo. E così via, pescando in tutti gli stereotipi, i luoghi comuni, le banalità che il mondo della cucina tradizionale è in grado di fornire a iosa. Chiudiamo segnalando che Papa Francesco un'altra volta è stato collegato ad animali, anzi a volatili. Qualche tempo fa ci fu il caso delle colombe liberate in piazza San Pietro e sistematicamente aggredite da gabbiani e corvi predatori. Colombe, a quanto se ne sa, di allevamento e quindi destinate a morte certa in un ambiente ostile come quello dei cieli di Roma per un animale impreparato ad affrontarli. Stavolta il Papa, sulla prima pagina del Corriere della Sera del 30 gennaio scorso, è immortalato sulla papa mobile con un pappagallo sul dito. Questa vicinanza con gli animali evidentemente piace, è innocua, non fa pensare a niente di particolare se non a suscitare un sentimento di benevolenza sia verso il pappagallo sia verso il papa. Nella didascalia si spiega che il papa è entrato in contatto con questo simpatico animale mentre attraversava piazza San Pietro. Il pappagallo era stato portato lì da un cittadino milanese che si trovava nella folla con moglie e figlie. Evidentemente questa persona si porta il pappagallo a spasso. Con Tigri di Carta ci sentiamo fra una settimana. Dopo il caso Caterina Simonsen, la buona ricerca è senza animali. Settimo incontro del ciclo Apericena sulla questione animale, organizzato dalla Casa del Popolo di Settignano e dalla redazione della trasmissione Restiamo Animali. Mercoledì 12 febbraio 2014 alle ore 20 presso la Casa del Popolo di Settignano in via San Romano 1 a Firenze. Gli ospiti saranno la dottoressa Linda Guerra e il professor Luigi Lombardi Vallauri, Si parlerà della ricerca scientifica, dei suoi presupposti etici, delle sue finalità. Per prenotare la cena, che si terrà alle ore 20, scrivere a restiamoanimali@gmail.com. Tutte le informazioni nel nostro blog www.restiamoanimali.it, perché la buona ricerca è senza animali. E a proposito di sperimentazione del caso di Caterina Simonsen, sentiamo che cosa pensa in proposito il dottor Stefano Cagno, psichiatra e fieramente contro la vivisezione per ragioni sia etiche che scientifiche, il quale ha risposto ad alcune domande della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Ci sono dei sondaggi che dicono che l'opinione pubblica è più favorevole adesso alla sperimentazione. Lei che cosa pensa di questi sondaggi? Ma i sondaggi bisogna anche vedere come sono condotti. Comunque è probabile che quel caso lì abbia spostato una parte dell'opinione pubblica da una parte all'altra. I nostri avversari sono stati molto bravi a puntare l'argomento sul solito contrasto tra gli animalisti e il mondo scientifico e soprattutto a utilizzare delle affermazioni di quattro disgraziati facendoli prendere per le affermazioni di tutti gli animalisti o peggio ancora della comunità scientifica contro la sperimentazione animale. Ricordo che si può andare su internet a vedere un filmato di una signora di 64 anni, non di bella presenza come la signorina giovane e carina, che dice che è contro gli esperimenti sugli animali ed è stata coperta di insulti esattamente con la bella signorina, la cui bella signorina, io qui lo dico non ho le prove, però ha anche un cognome che è identico ad una ditta che alleva e produce animali da laboratorio. Si dice anche che con la nuova normativa non potrebbero essere più fatte studi seri sul cancro perché non si potrebbero applicare le cellule, i tessuti tumorali sugli animali per gli esperimenti. Lei che cosa risponde a questo? Il discorso di xenotrapianti, che dovrebbe essere fortemente limitato dall'applicazione del decreto dell'articolo 13 e poi nelle sue varie modifiche del governo, in realtà limita un campo che è fortemente discusso sulle potenzialità non solo positive che dicono chi è a favore, ma anche sui grandissimi rischi che gli xenotrapianti possono provocare per la salute umana. Questo è un discorso lunghissimo, ma si riteneva che gli xenotrapianti essere rutinari nel 1995, siamo ancora qui perché attraverso gli xenotrapianti rischiamo di provocare delle infezioni sconosciute nella nostra specie che potrebbero essere letali non solo per la persona ma anche per tutti gli altri. Ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.